carta mia. Ricordo il fieno e i tuoi cavalli di Normandia. Eravamo liberi. Ascolta Marta, in questo strano autunno i tuoi cavalli gridano, urlano, incatenati ormai. Cosa dire, soffocare, chiuso qui perché? Lamenti di chitarre sospettate a torto, sospirate piano, e voi donne allo sguardo altero, oh, che come melograno non piangete. Thank you. venne a perdere, sentivo il peso del mondo. Vedo che muto di non saltare più al sole.

mente che se ne va. Il giorno aspetterà, per me si fermerà un po' di più. Vanità eterna è la strada. Thank you. appeso al cielo, sugli occhi c'è il sole nel petto. Ciò che sono e Dio Thank you.